get a good feeling, yeah. Yeah. Il coordinamento lesbiche romane presenta I get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no. È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. I just wanna tell you right now that, Trasmissione autogestita sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. Buonasera, buonasera a tutte, bentornate a È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. Speriamo che anche voi vi rendiate perfettamente conto di quale calamità sia essere presenti qui stasera. E questa è la nostra trasmissione numero 1.145.286, perché ai noi, visto che ne abbiamo fatte così tante, la sottoscritta e penso che anche qui le compagne che sono presenti in sala, Monica che per la prima volta stasera sarà ai microfoni di questa ormai storica trasmissione, Annalisa la quale graziosamente stasera ci ha concesso la sua presenza insieme alla sua fidanzata Lucia, e insomma dice naturalmente io Rosina, io mi sono scordata il numero della trasmissione, ma anche queste che sono delle chiacchielle se lo sono dimenticato pure loro, perciò diciamo che sia la trasmissione numero 1.000.000 e che ci sia di buon augurio. Benissimo, allora è un sacco di tempo che non ci sentiamo, abbiamo molte cose da dirvi stasera, la trasmissione si svolgerà in un modo molto bello, molto carino, molto simpatico, ma non ci lasciate quando avremo finito di parlare, perché vi faremo due scatole così come si dice. E ci sarà naturalmente un appuntamento importantissimo del quale parlerà Annalisa, anche se fa la tecnica. Più tardi Annalisa ci parlerà di questa cosa che accadrà il 17 venerdì, cena contro la sfiga al Buon Pastore per la lesbo tombola. E io lascerei, sì, vi darei innanzitutto il numero del nostro telefonino al quale ci potete inviare i vostri messaggi. Dunque 338 41 46 682. Vi diamo anche il numero del CLR, che è 06 68 64 201, se volete ci potete lasciare un messaggio in segreteria telefonica. E qui sarà anche il caso di dare il nostro indirizzo mail, che è clrbp.contatti, lo devo leggere perché io non sono telematica, non sono informatica, ditemi qual è, faccio come Mike Buongiorno, qual è? contatti@clrbp.it, e potete telefonare in radio stasera al 06 49 1750. I numeri li ho dati tutti, qualcuno di voi li può prendere per giocarseli all'otto. Poi naturalmente farete un'offerta al CLR che naviga in pessime acque, diciamolo, quindi il 17 venite tutte quante, copiose e copione. Dunque, Annalisa, smettila di giocare con il telefonino, che vuoi fare? Vuoi mandare un pezzo musicale? Oppure no, dalla regia mi dicono di no, quindi io cederei prontamente la parola a Monica che ci introduce l'argomento della serata. Buonasera a tutte, eccomi qua per la prima volta, spero che non vi annoierete troppo, se è una trasmissione alla quale abbiamo lavorato con Rosina con molto entusiasmo, vuole essere seria, quindi sedetevi, prendete da bere, mettetevi comode, alzate le gambe, due patatine, due chipster, tutte cose no global mi raccomando, e naturalmente siate attentissime perché vogliamo sapere che cosa ne pensate e soprattutto se condividete con noi il piacere di riscoprire queste cose. Diciamo che partiamo da un dato storico che vi vogliamo ricordare, che è il fatto che nel 1982 la Libreria delle Donne di Milano e la Biblioteca delle Donne di Parma, citando uno splendido testo di Gertrude Stein, intitolano un loro catalogo Le Madri di Tutti Noi, offrendo una scelta all'interno della tradizione letteraria al femminile di nomi di grandi scrittrici con cui si erano confrontate. E lo avevano fatto alla ricerca di quello che sanno e che sono le donne. Ed affermano: volevamo vedere se i loro scritti facessero apparire un simbolico delle donne. Contro la loro volontà abbiamo voluto affermare la nostra, ridurle alla parzialità per averne un guadagno politico. così Jane Austen, Sylvia Plath, Elsa Morante, Gertrude Stein, le sorelle Bronte, Virginia Woolf sono altrettanti esempi di come le donne si sono costruite una genealogia, un'ascendenza, scegliendosi le proprie antenate insieme, a volte anche contro coloro che le hanno precedute. Anche noi vorremmo oggi, insieme a voi, cercare di tracciare una nostra genealogia, guardando soprattutto a quelle che al loro lesbismo sono riuscite a dare parola. Si tratta naturalmente di un inizio, vero Rosina? Certamente. Che speriamo di poter proseguire nel tempo, se non ci fate fuori prima, soprattutto se troviamo il vostro gradimento. In questo cammino, che pensiamo non debba essere per forza cronologicamente lineare, un posto d'onore secondo noi spetta a Sibilla Leramo, al secolo Rina Faccio, nata nel 1876, scusate, ad Alessandria, e morta a Roma nel 60, e soprattutto alla sua passione per la giovane Lina Poletti. Don't you know, talking about a revolution sounds whisper. Don't you know, talking about a revolution sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution, it sounds whisper. Who are people gonna rise up and get their share? Who are people gonna rise up and take what's theirs? Don't you know you better run, run, run. Those of the armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution sounds whisper. And finally the tables are starting to turn, talking about a revolution. Talking about a revolution, oh no. Talking about a revolution, oh no. Talking about a revolution. E mentre ricorda tutto il nostro numero 338-41-46-682, rispondo a una domanda che vi sarà nata spontanea: ma chi era Lina Poletti? Quando conobbe Sibilla Leramo nell'aprile del 1908 al Congresso delle Donne di Roma, era una giovane studentessa, nata a Ravenna nel 1885 in seno ad una famiglia della buona società che le aveva permesso di laurearsi giovanissima con una tesi in critica letteraria. Il rapporto con Sibilla durò circa un anno. Quasi nient'altro sappiamo della vita di Lina, se non che finì con lo sposarsi nell'agosto del 1910 con Santi Muratori, intellettuale e raffinato esperto d'arte antica, cosa che non le impedì tuttavia di divenire nel 1911 l'amante di Eleonora Duse, per la quale scrisse tra l'altro un dramma, Arianna, che non fu mai rappresentato. A partire dal 1931 visse a Roma con Eugenia Rasponi, femminista, radicale, che aveva presieduto proprio il convegno del 1908, il convegno Galeotto. Scrisse ancora vari testi per il teatro, tra cui L'Ippolito, dedicato a Sibilla, un poemetto alla guerra e un dramma poi musicato, Le Fedriadi. Di questa sua vasta produzione però a noi non è giunto nulla. Di Sibilla invece restano l'intera produzione, gli inediti, l'archivio della corrispondenza, i ricordi, i libri, persino le valigie, eccetera, eccetera. Insomma, quasi tutto, compreso il modello di donna indipendente, emancipata e trasgressiva che lei stessa ha contribuito a creare e ad alimentare, quasi come una missione ineludibile. Dice infatti di sé, proprio in una lettera a Lina Poletti: «Io sono la schiava del mio istinto di grandezza. Il giorno in cui, per qualsiasi circostanza, quell'istinto ceda, tutto sarà finito, semplicemente. Ma finché io vivo, io esalterò la mia realtà per me stessa». E questo lo diceva proprio una lettera a Lina. Questa sua ostinata determinazione la portò ad essere autrice di vari romanzi, fra cui Una donna del 1906, opera parzialmente autobiografica, simbolo di un'intera generazione, che vi riconobbe il destino di molte donne violentate, costrette a sposare lo stupratore, ma di trapiantate in squallidi paesini di provincia a seguito del marito. A questo destino però la protagonista reagisce abbandonando consorte e prole e iniziando una vita autonoma, economicamente indipendente. All'esordio letterario seguirono Il passaggio del 1919, Amo dunque sono del 1927, Il frustino del 1932, alcuni versi e la pubblicazione di molte pagine tratte dai diari. La passione per Lina, che Sibilla chiamò la maschia fanciulla, fu improvvisa e inattesa. Così la descrive in una lettera del 9 maggio 1909. Solo una notte, e mai non fosse l'alba, e non ci vedessero altri che le stelle. Ecco, voglio mostrarti la mia anima sola dinanzi alla tua, con intorno il silenzio, e come se il domani non dovesse venire. Lina, rammenti ciò che ti scrissi la prima volta, dopo quella prima ora di passione al Gianicolo. Rammenti che ti invidiavo per l'ineffabile mistero che tu avevi accolto con tanta bravura. Ti invidiavo, e già ero investita dallo stesso sacro vento. Lina, Lina, io non so ancora bene che cosa fosse in te allora, ma so che per me la rivelazione del mio nuovo sentimento fu tremenda, qualcosa di vertiginoso, ah sì, che mi tenne a lungo priva di respiro. Lina, io non avevo mai in vita mia pensato alla possibilità di amare una donna, mai, intendi? Non credevo se non all'amore della coppia umana, all'integrazione dei due rami umani. Leggendo una volta ad una triste passione di Michelangelo per un giovane uomo, avevo rabbrividito come dinanzi all'incomprensibile follia, ma nessun desiderio mai m'era venuto di scrutare il buio orrore, e nessun'anima di donna m'aveva attratta al suo segreto, come nessuna forma femminile avevo mai vagheggiata. Puoi immaginare dunque, tu che un destino strano ha spinto invece fin da giovinetta verso questo mistero, puoi immaginare tu come io sia stata sconvolta quando mi scopersi innamorata di te? Innamorata, sì, non v'era altra parola, del tuo fuoco, della tua voce, della tua grazia, e poi dell'ombra tua, Lina, di tutto ciò che di te mi si andava disegnando a contorni vaghi e fuggenti, nella malia della tua parola, e poi ancora innamorata della tua entità spirituale che mi si affermava nel fisso splendore del tuo sguardo. In che modo avrei potuto negare, illudermi? Lina, è stata un'immensa sciagura, ma confortati, è stata anche un'immensa gioia, forse più grande questa di quella. Non so, e non importa. Quel che importa è che t'ho amata e che ti amo. Oh, la tua anima, perché era di donna, perché era di sorella, l'ho sentita così vibrare accanto alla mia come nessun'altra prima. Con quale brezza ho colto il tuo sospiro, e come si è dilatata la mia al soffio di lei, ampio e possente. E la tua giovinezza, dinanzi a cui mi trovavo volta a volta madre infante. Perché ti parlo al passato? Tutto questo è attualmente. Lina, Lina, creatura che vorrei chiamar mia e non sei, sappi che sono felice d'amarti, d'essere vissuta tanto da incontrarti, e che per nulla al mondo oblierò mai questa felicità. Thank you. Eccoci qui, abbiamo ascoltato Speaking of Dreams di Joan Baez, una canzone lesbica, lo possiamo dire con tutta tranquillità. Spero che siate riuscite a capire il testo, che è bellissimo. Annalisa purtroppo aveva confuso la Baez con Barbara Streisand, non ho capito bene come abbia fatto. Comunque si sa che le napoletane tengono l'orecchio musicale, e quindi che vuoi fare? Va bene. Diciamo solo che oggi le perdoniamo tutto, perché insieme a Lucia fanno il primo anniversario. Ah, oh, che carine! E infatti sono qui per festeggiare con noi. No, in realtà sono state obbligate a venire, ma sono molto buone e quindi noi li ringraziamo ancora. Dunque, che dire di questa lettera bellissima e anche commovente, secondo me, di Sibilla per la sua Lina? E notate tra l'altro che nel 1909 già il Gianicolo era un posto in cui le coppie si recavano ad avere situazioni di tipo plastico, non credi, Monica? Tu? Assolutamente, il Gianicolo poi, voglio dire, ha una storia antichissima da questo punto di vista, ben prima del Novecento. Prossimamente vi prometto una puntata con alcuni scoop eccezionali su questo. Ecco, hai capito? Monica lo dice perché lei è una che al Gianicolo si reca abitualmente. Quindi... Naturalmente, è notorio. Allora, che cosa dire? Dunque... Sibilla De Ramo, durante la sua relazione con Lina Poletti, aveva già una relazione precedente di lunga data con uno scrittore importante, un poeta noto, Giovanni Cena, E questa storia d'amore permette a Sibilla appunto di scoprire anche una parte nascosta della sua identità, quindi di concedersi la possibilità di amare l'uguale e anche seppure differente da sé. E questo nelle difficoltà e negli ostacoli, nelle censure che la società del tempo imponeva. E proprio la scoperta di questo amore per Lina Poletti mette in crisi definitivamente il lungo rapporto affettivo che la scrittrice aveva appunto con Giovanni Cena. Ma sarebbe interessante anche sentire l'altra campana, quindi la voce dell'altra donna, e della sua forza travolgente, della passionalità che Lina aveva per Sibilla. Ci parlano alcuni passaggi delle sue purtroppo poche lettere che sono giunte fino a noi, e Monica ce ne leggerà una dell'8 marzo del 1909. Lina Poletti a Sibilla, da casa. 8 marzo 1909, 13:30. Sibilla. O mesta vittoriosa dell'iniquità altrui, o rasserenatrice soave delle altrui tempeste, non disdegnare di accogliere umanamente l'ossequio che inginocchiata ti tributa la mia anima. Apriti alla mia ardenza trepidante, lascia che io t'ami ormai con la foga irrompente della mia corsa vertiginosa. Lascia che io sia la tua fedele per sempre. Ecco, e io disfreno incontro a te il mio cuore, alivolo corridore superbo che batte folgorando le plaghe solitarie dei cieli. Ecco, e io libero dai chiusi cancelli le potenze segrete della mia vita, perché consurgano tutte liberamente verso di te, senza tormenti più, senza violenze più, senza più torbide ambasce. Ora che nulla le inceppa, ora che tu le accogli, benigna letificatrice, sorridendo. Esco oggi ad amarti, nel sole e nella primavera giovinetta. Ho uno spaventoso tumulto nell'anima, ho nelle vene l'arsura della febbre, ho nel cervello la collera terribile dell'odio che matura il delitto. Ma t'amo e ti porto con me nel seno vasto della nostra madre comune, la natura santa, da cui esco vergine alla ribellione contro la società degli uomini. Ti porto con me, col mio disdegno e il mio furore, lontano, lontano, Sibilla, sempre più in là. Naturalmente Sibilla era persona non facile da gestire, e lo spirito indipendente che la caratterizzava non poté tollerare la forza totalizzante di un rapporto fusionale, seppur con una donna di cui Lina era esperta in maniera ben diversa da Sibilla. Nonostante le insistenze di Lina perché interrompesse definitivamente il legame con Cena, Sibilla rifiutò, rivendicando la propria libertà e autonomia, scegliendo cioè in definitiva la solitudine. E lo strappo fu davvero doloroso. 27 maggio 1910. Finito. Questa volta la parola ha un senso così preciso, così pacato perfino, che mi sembra composta di materia insensibile, qualcosa come una cassa di zinco in fondo alla terra. Finito. Ieri sera il mio compagno m'ha vista piombare a terra di colpo, così. Finito. C'è stata un'estrema convulsione. Ho morso le mani soccorrevoli e amorose, ho inferocito contro di me tutta. Poi ho mandato la parola da Dio ed è finito. Mi sono stessa sul letto senza più una lacrima e il torpore m'ha fasciato le membra scottate, e l'alba stamane m'ha trovata senza stupore, rigida e pronta. Finito. È un sollievo ripeterselo. Non più speranze, non più ansie, non più angoscia, non più terrore. Finito. Tutto ormai è chiuso in me stessa. Non aspetto altro da me che la vita e la morte. Nessuno può più nulla, in bene o in male, nella mia giornata. Era in me la forza divina di amare fino alla morte, di vivere la duplice vita di chi ama, doppio dolore, doppia gioia, anima perpetuamente opposta ad un'altra, in una perenne creazione del Dio. Non era in lei. Ella si è staccata, dopo aver lungo tutto il tempo mirato inconsciamente a questo. Ora lo comprendo. Ella non sapeva amare l'amore più di se stessa. Non ha sacrificato al Dio che qualche istante, l'attimo che ogni creatura conosce. Non io ho ceduto, ma poiché ella mi si mostra infine irrimediabilmente impari alla mia volontà, la lascio involarsi, divenire nebbia e atomo imponderabile. Ed ecco, tutto è finito. La mia duplice vita è morta. Io sono di nuovo io soltanto, una cosa di libertà e di solitudine, meravigliosa cosa ancora, ma non più trascendente, non più sovrumana, non più divina. Finito. Che dire di tutto questo? Che dire? Nell'alto della tua conoscenza, che cosa puoi dire di queste lettere? Beh, dire che naturalmente abbiamo sentito due lettere, due voci completamente diverse. Da un punto di vista, diciamo così, del dolore, forse abbiamo una comunanza profonda e sentita da tutte e due le parti, anche un modo diverso di porsi di fronte all'ineluttabilità delle cose, scusatemi. Sibilla pronta a trasfigurare tutto nel mito, no? A far diventare l'amore stesso un mito. Lina forse è un po' più legata alla cultura, un po' più legata alla tradizione, un po' meno capace di dar voce ai suoi sentimenti con parole che non siano così tanto legate alla cultura del suo tempo, no? Certi termini tipicamente futuristi, tipicamente legati alla produzione delle giovani di allora. Bello questo alivolo corridore, oppure esattamente, no? Che ci danno un po' la misura della distanza. Però di fronte abbiamo due donne così diverse, due donne di età profondamente diverse. Sì, no? Lo ricordiamo, Lina aveva 9 anni meno di Sibilla. Sibilla era già una donna, insomma, anche già una donna abbastanza famosa, era comunque una donna di una certa levatura, una donna con un certo carisma. Certo. Era anche un po' una che tendeva, come dire, ad essere piuttosto libera, anche libertina per certi versi, e tendeva anche sostanzialmente a, come dire, dare sempre la colpa alle altre e agli altri, no? Ah, questo non c'è dubbio. Diciamo che sicuramente il vissuto e l'amore è stato per Sibilla uno degli strumenti di conoscenza fondamentali, anche di produzione fondamentale, su questo non c'è proprio dubbio. Direi però che è molto interessante notare, come spesso accade anche nelle nostre esperienze di vita, nella esperienza di tutti noi, che questa differenza di età molto spesso è rovesciata dal punto di vista del vissuto. Cioè Lina ha sicuramente un'esperienza maggiore nell'amare le donne, Sibilla scopre per la prima volta questa possibilità con tutto quello che nella società in cui lei viveva questo significava, e anche soprattutto quello che significava per una donna che aveva costruito sul rapporto d'amore gran parte della sua storia, della sua vita, insomma, e quindi non è stato facile. Benissimo, senti, che cosa scrive Lina qualche mese dopo? Sì, qualche mese dopo. Somnians. Esatto, questo pseudonimo, ci spenderei un attimo due parole, no? Perché tanto per cominciare usa uno pseudonimo maschile, e questo ovvero ce la dice lunga sulla cosa, e anche, diciamo, su come è evoluto e stava cambiando il rapporto con Sibilla. Ma soprattutto d'altro canto la chiama maschia fanciulla. Esattamente, la chiama la maschia fanciulla, e poi nel passaggio addirittura parlerà di lei mettendo, poi magari se abbiamo tempo ne leggiamo un pezzettino, mettendo in rilievo soprattutto gli aspetti maschili di Lina. Te lo leggo subito. Anzi, ce lo leggo subito, Rosina, va bene, vai. Ella supponeva se stessa un maschio cuore, e foggiata s'era veramente a strana ambiguità sul nativo indizio forse del timbro di voce, forse della tagliente sagoma, s'era foggiata ed agiva con volontà d'uomo e d'angelo ribelle, con forza quasi di dannato. Ma io, nessuno potrà mai giudicare se più demente o più veggente, ero toccata invece da ciò che in lei permeava d'identico la mia sostanza. Tentavo persuaderla del mio canto. Tu non sai quanto il tuo amore sia diverso, per quanto tu faccia, dall'amore che gli uomini possono darmi. Com'è leggera la tua carezza, non mi penetri ma mi accosti come ni uno mai. Bello, eh? Beh, eccezionale, 1923. Non c'è che dire. 23. 23? Il passaggio dovrebbe 1923, essere più o meno. Oppure no, dicevo. Sì, dicevo, questo pseudonimo è molto interessante perché, Somnians vuol dire colui che sogna, in questo caso, quindi chi è ancora illuso da un'immagine che rimane nella mente quando ci si sveglia, e Tristano per eccellenza è il nome dell'infelice d'amore, quindi questa identificazione ci dice che, insomma, Lina, anche se poi a qualche mese di distanza, anzi forse meno di qualche mese, si sposa, in questo momento non la prende tanto. Però diventa anche l'amante della Duse, quindi in realtà certo. Si è consolata da un lato e dall'altro. Potremmo dire così. Certo. Allora, che cosa scrive Tristano Somnians, Lina Poletti a Sibilla, da casa, lì 13 agosto 1910, sera. Spedisco con le lettere richiestemi il manoscritto e il ritratto infantile, i quali non hanno nessuna ragione di rimanere presso di me dopo quanto tu mi scrivi. Naturalmente io non ho nessuna disposizione da dare in merito alle lettere mie, giacché non ho mai amato persone tali che possano essere sospettate capaci di fare indegno uso di quelle che la spontaneità del mio intimo animo mi abbia dettate nei vari momenti della vita. Verrò a Roma tra pochi giorni per ragioni di lavoro, e come avevo divisato di venire a salutar cena, andrò a trovarlo alla sede della nuova antologia. Sono dolente solo di dover impegnarti a un'ulteriore risposta. Ti chiedo se io debba ritirare dalla stampa dell'Ippolito la dedica a te, poiché essa appartiene e rappresenta quel periodo di tempo che tu ora giudichi pazzesco, ma che io non rinnego né contaminerò mai in avvenire. Salute. l'anima fatica, mi svuota dentro qualcosa che assomiglia a ridere nel pianto. Amarti ma fatica, mi dà malinconia, che vuoi farci è la vita, è la vita la mia. Amarti mi consola le notti bianche, qualcosa che riempie vecchie storie fumanti. Amarti mi consola, mi dà allegria, che vuoi farci è la vita. Tell naturalmente questa era Gianna Nannini con Amandoti, che speriamo sia un augurio per tutte quante, che tutte quante, perché qui siamo tante questa sera, c'è un traffico incredibile, c'è un sacco di donne meravigliose, bellissime, che ci sono venute a trovare. Allora, ricordo a tutte che ci potete mandare un sms al 338-41-46-682, oppure potete mandarci una mail, possibilmente bella ed erotica, a contatti@clrbp.it, oppure ci potete telefonare e fare uno squillino qui in trasmissione 0649-1750. Ed ora la parola finale alla nostra sexy Rosina. Caspita, io sono veramente conturbata dalle parole di Monica. Che dire, prima che Annalisa si addormenti sul prima che Annalisa si addormenti sulla strumentazione, perché forse Annalisa preferiva un argomento un po' meno aulico e più pregnante. Vabbè. Insomma, che cosa dire di queste lettere di Sibilla e di Lina? Intanto che ci mandano un messaggio bello rispetto all'amore, Quello che invece un pochino ci manca, ma forse ci manca perché magari non ne hanno scritto o comunque non è rimasta traccia, e quello che non ci hanno detto è invece quanto questo tipo di rapporto fra di loro abbia invece segnato l'esistenza, no? Quanto le abbia arricchite, e anche spingendole a fare i conti con tutta quella serie di modelli imposti dalla società dell'epoca, quanto pesava e quanto pesa tutt'oggi l'eterosessualità obbligatoria nell'esistenza delle donne, e quanto le differenze poi venissero cancellate dai modelli imperanti. E con questa lettura abbiamo voluto dare voce a questi dolori di queste donne che hanno vissuto tanto tempo prima di noi, ma non tanto prima di Annalisa, che insomma si sa che è una vecchia babbiona giurassica. E comunque speriamo che questa trasmissione vi sia piaciuta. Fra brevissimo lasceremo la parola ad Annalisa, perché è lei che si occupa di... Sì, ce la fa. Quindi, ci sono delle voci che si inseriscono, perché veramente siamo tantissime stasera ed è molto bello. Tra l'altro vorrei anche ringraziare Luisa che ci ha scritto un messaggino molto, molto carino, a cui appunto la trasmissione è piaciuta. E ci ha fatto gli auguri per la Lesbo Tombola, di cui fra brevissimo ci parlerà Annalisa. E lei purtroppo non potrà venire perché ha un esame all'università, quindi noi le auguriamo in bocca al lupo. No, queste cose non si dicono. Le auguriamo in bocca al lupo. E non so se Annalisa ci vuole mandare un pezzo prima di parlare. Oh, certo, Annalisa ci manderà un pezzo. Che pezzo è, Annalisa? Ce lo vuoi comunicare? Che pezzo è? No, ci ha mandato questo pezzo, non si interrompono i pezzi, questa artista questa artista bellissima che è Zeta Star, di cui è follemente innamorata Tania, che ascolta da 3 giorni sempre brani suoi, è un'artista lesbica, americana, inglese, ecco, vedi? abbiamo fatto immediatamente la nostra figura. Sì, il brano che ha scelto Tania è Nova Lud. Nova Lud. You are the ground. They took the lost highway. Allora, gli appuntamenti a Firenze, in via della Pisana al 32R, Azione Gay e Lesbica presenterà il 16 dicembre, giovedì, Quando cala la notte di Patricia Rozema, che qualcuno di voi se lo ricorderà perché l'abbiamo dato più volte nella nostra rassegna cinematografica Les Bollywood al Buon Pastore, e il 23 dicembre a seguire alle 20:30 organizzeranno una cena con tombola lesbica, e la tombola sarà la lesbotombola del CLR, che come vedete non solo è qui a Roma, ma si è allargata a macchia d'olio su tutta la penisola e anche oltre, sul continente, attraversando gli oceani, mari e i fiumi di là. Vabbè, mi guardano male e basta. Comunque la lesbotombola è la nostra unica e rara, anzi direi unica e assoluta, e vi invitiamo tra l'altro a comprarla venerdì 17 alla nostra iniziativa Cena contro la sfiga. E dunque, che ce n'è bisogno. Tra l'altro vi informiamo anche che è stato inaugurato un nuovo sito italiano lesbico e gay per chi cerca e offre camere in affitto in tutta Italia gratis. L'incubo della ricerca di un posto dove abitare finalmente è finito, e vi diamo l'indirizzo www.leshome.it. Vi ricordiamo altresì che è iniziato un corso di biodanza per sole donne a Brescia. Casomai ci facciamo un salto anche noi, che ce n'abbiamo bisogno, Rosina. No, ballare mi affatica. No, sì, vabbè, qua dobbiamo buttare giù chili, altro che. Dunque, allora, dicevo, biodanza quindi per sole donne, che in realtà è iniziato il 28 novembre, ma prosegue da ottobre a giugno 2005. È aperto alle partecipanti che si vogliono unire in questa esperienza, condotte dall'amica Viviana Geron. Gli incontri si svolgeranno una volta al mese presso il Salone Arci, via Villa Glori 10B, traverse di via Milano, Brescia. Gli orari sono domenica 28, ormai è passata, ma insomma 14-17, domenica 12 dicembre 10-12.30, domenica 16 gennaio 14-17. Informazioni e iscrizioni 333-4567-754 oppure 0261-51548 347-1503-829. Vorrei anche ricordarvi una cosa che mi riguarda personalmente, cioè il fatto che io organizzo insieme ad altre due carissime amiche che si chiamano Maria Serena Sapegna e Fabrizia Giuliani un laboratorio di letture Sguardo sulle differenze. Il primo appuntamento è lunedì 13 alla Facoltà di Lettere e Filosofia, Aula Vinai, ore 15-18, e leggeremo tutte insieme e discuteremo di un libro meraviglioso di Azar Nafisi che si chiama Leggere Lolita a Teheran, con uno sguardo di genere fra donne di generazioni diverse. Vi aspettiamo tutte. Allora, adesso manderemo la nostra sigla finale, sì. Annalisa è lì pronta con il suo ditino sugli strumenti. Mi raccomando, non ve ne andate, perché dopo la sigla staremo ancora insieme per un quarto d'ora. Ciao e grazie. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. Yeah. I get a feeling that I never, never, never, never had before. Avete ascoltato È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, a cura del coordinamento Lesbiche Romane sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. I really do believe.